Un buongiorno a Marilisa Murgia e benvenuta sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Buongiorno a voi, grazie mille. Prima edizione di Mente Locale Young, le scuole italiane raccontano il territorio. In cosa consiste questo bando e come si può partecipare? Allora, il bando è alla sua primissima edizione. Mente Locale Young nasce dall'esperienza di Mente Locale, che è il primo festival italiano dedicato al racconto del territorio attraverso l'audiovisivo. È organizzato da Carta Bianca, APS, insieme agli amici del cinema Vittoria APS, Aspa Sas, Cefaun, Cineclub di Sassari, Radio Immaginari, Associazione Culturale CTM, ed è finanziato dal MIBACT MIUR attraverso il bando nazionale Cinema per la Scuola, Buone Pratiche, Rassegne Festival del 2019. L'obiettivo del concorso è selezionare e presentare il meglio della produzione audiovisiva che è stata realizzata in Italia, appunto in ambito scolastico, avente come tema principale il racconto del territorio, inteso in senso ampio come racconto di luoghi, di persone, organizzazioni, saperi e tradizioni che sono riconducibili a un'area geografica. È riservato appunto alle opere audiovisive che sono state realizzate dalle scuole di ogni ordine e grado a partire dal 2017 fino ad arrivare al 2020. Non c'è una durata particolare, un genere o un formato particolare. Diciamo che sono ammesse al concorso tutte le opere. E le scuole possono quindi partecipare sia con l'iscrizione dei film che hanno realizzato, sia anche con l'iscrizione degli studenti alla giuria Young. In particolare, questo è dedicato soprattutto agli istituti secondari di primo e di secondo grado, quindi alle medie e alle superiori. Per partecipare alla giuria Young, gli studenti seguiranno un percorso di formazione tenuto da Riccardo Palladino, un filmmaker, saggista e docente di linguaggio cinematografico, e Roy Menarini, critico cinematografico, professore dell'Università di Bologna e dirige anche la rivista Cinergia, il cinema e le altre arti. Il percorso durerà 6 ore, sarà principalmente online e attraverso questo percorso di formazione gli studenti che parteciperanno alla giuria Young avranno tutti gli strumenti a disposizione per poter valutare i film in concorso durante il festival. Ci saranno anche alla fine dei premi che verranno dati appunto ai vincitori del bando. Assolutamente sì, intanto la partecipazione sia alla giuria che al bando di concorso per la selezione dei film è totalmente gratuita e scade il 28 di febbraio ed è possibile partecipare scaricando le schede di iscrizione dal nostro sito che è www.festivalmentelocale.it. Quindi basta un semplice clic, scaricare una scheda e inviarla per email. Sono previsti 3 premi che sono assegnati. Allora, uno è assegnato dalla giuria Young ed è un premio di 500 euro alla migliore opera in concorso. E un altro, sempre di 500 euro, assegnato dalla giuria senior al migliore audiovisivo, anche in questo caso in concorso, e un altro di 500 euro assegnato dalla giuria senior alla miglior recensione che viene effettuata dalla giuria Young. Quindi le scuole diciamo che avrebbero a disposizione 3 premi da 500 euro ciascuno. Quanto è importante per voi avvicinare i ragazzi e le scuole nella realizzazione e nella partecipazione a questo bando culturale che appunto avvicina i ragazzi al mondo dell'audiovisivo? Allora, mai come questo periodo per noi sarebbe fondamentale poter lavorare con i ragazzi perché come associazione realizziamo anche dei corsi di formazione proprio sul linguaggio audiovisivo per il racconto del territorio, quindi poter collaborare, lavorare appunto con i ragazzi, soprattutto delle medie, delle superiori, è per noi un arricchimento. Nel corso degli anni, con Mente Locale, che quest'anno giunge nel 2021 alla sua 8ª edizione, abbiamo ricevuto diversi lavori realizzati dalle scuole, che magari in alcuni casi non potevano essere proprio in linea con quelli che sono i parametri, tra virgolette, richiesti da Mente Locale. E avevamo sempre in mente di poter realizzare un festival tutto dedicato alle scuole, perché ci sono stati anche degli anni in cui con Mente Locale facevamo dei matinè nelle scuole. Quindi poterci avvicinare ai ragazzi e poter lavorare con loro è per noi direttamente appunto una grandissima possibilità, un arricchimento e soprattutto in questo periodo pensiamo che per i ragazzi possa essere anche un modo di svagarsi, avere la possibilità di poter vedere dei film, ma soprattutto di poter analizzare un film grazie a degli strumenti che gli vengono forniti da degli esperti del settore. Penso che anche per loro sia un'ottima possibilità formativa, ma anche di aggregazione, di potersi vedere, conoscere insieme, perché comunque il bando è destinato a tutte le scuole italiane, quindi ragazzi della Sardegna, ad esempio, potrebbero conoscersi con ragazzi della Liguria, della Sicilia, quindi l'idea di unire più ragazzi, più giovani insieme e di poter collaborare con tutti è per noi un motivo di orgoglio, diciamo, per questo festival soprattutto, e speriamo che sia il primo di una lunga edizione in realtà, e ce ne siano molte altre. Perfetto, Marilisa, io la ringrazio e in bocca al lupo a tutti coloro che insomma parteciperanno a questo bando. Vive il lupo e grazie ancora per la disponibilità e per averci concesso questo spazio.